Ce ne sono altri invece che sono condannati in maniera eccessiva a secondo di quello che fanno. Adesso prendiamo il caso di quel fotografo, che non mi ricordo come si chiama, Corona. Quello, ragazzi, vabbè, ha fatto una serie di reati, sì, tutto quello che vuoi, però alla fin fine, ragazzi, mi sembra che gli hanno dato roba 15-20 anni di carcere, quando a volte c'è gente che ammazza e non gli danno nemmeno 10 anni. Boh, non riesco a capire come funziona la giustizia tante volte, ecco, non, assolutamente, ci sono delle differenze madornali da individuo a individuo e da reato a reato. Perché anche quello ha dimostrato che per carcere, diciamo, non è bastato, ecco. È uscito e dopo un po' l'hanno ripiccicato a fare cose anche peggiori, quindi sai come, Giulio, noi parliamo, però con tutta la buona volontà, quando la razza è quella, cane rimane cane, così come il gatto rimane un gatto, è un delinquente, disgraziatamente spesso rimane anche delinquente. Sì, ma indubbiamente, ma quello che più mi dà fastidio è, sai cos'è, che lo pubblicizzano in maniera estrema, sempre in televisione, sempre sui giornali, e sembra per loro questo qui è un successo, per questi delinquenti, perché di delinquenti si tratta, e per loro è un successo questo, perché diventano popolari e sono anche apprezzati e ammirati da tantissima gente, perché c'è gente che fa tipo per loro. Io quelle persone così che delinquono, cosa avrei fatto? Avrei fatto un recinto grandissimo con muri altissimi di parecchi metri, in modo che nessuno potesse scavalcarli, li avrei chiusi. Voi mi volete sfogare? Ecco, adesso mi sfogatevi fra di voi, visto che è considerato che siete tutti dei delinquenti qua, così almeno vi rendete conto di quello che fate, perché prima o poi il vincitore trova anche quella persona che lo fa perdere, per cui proverebbero una cosa e l'altra, invece queste sono sempre vicitudini, sono purtroppo è così, l'Italia e penso anche tutta la parte del mondo è sempre così. Sì, purtroppo è così, non è, anzi l'Italia si fa uno dei paesi più tranquilli dal punto di vista della criminalità, anche se poi si manda tutto in televisione per fare audience, però tu guarda i filmati che ti arrivano dagli Stati Uniti, hai visto quello lì, solo perché era di colore, cioè l'hanno sparato roba di 7 colpi di pistola, non ho capito neanche che tanto l'ha protetto che è riuscito a sopravvivere, però l'hanno massacrato di colpi di pistola, ma com'è possibile? Com'è possibile che la polizia possa fare delle cose del genere? Cioè l'hanno subito, ti dimentichi di alzare una mano e questi ti sparano, è una cosa assurda veramente. Mentre invece ho visto i nostri carabinieri, ci hanno filmato in televisione che stavano cercando droga alle periferie di Roma, no? E dimostrano una professionalità, un'umanità veramente notevole, cioè che le ha preso pure il caffè, loro l'hanno accettato da una signora, perché quella ha detto, ma come mai questa cosa? Perché questa gente che sbaglia, ma ci mettiamo anche il dubbio, se noi fossimo stati al loro posto, cosa avremmo fatto, ecco, capito? Purtroppo sì, ma ce ne sono tante di cose da dire, per carità. Anche fra le persone che dovrebbero far mantenere l'ordine, lo sappiamo benissimo, ci sono anche lì i malintenzionati, o meglio delinquenti, nel vero senso della parola, fra quelle persone che dovrebbero far mantenere l'ordine. Non ci dobbiamo dimenticare che anni or sono c'era quella banda di agenti, mi sembra che fossero, che andava in giro con la macchina e uccideva chiunque trovasse, o perlomeno chi non gli andava a genio. Si trattava di una 5-6 persone, mi sembra che andassero in giro con una macchina privata di una 127, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliarmi, e questa era proprio una banda omicida che poi dopo tanti anni, dopo che hanno fatto un sacco di omicidi, finalmente sono stati scoperti e chiaramente condannati, è ovvio, questo è normale, no? Succede anche quello, ripeto, anche da parte di chi dovrebbe far mantenere l'ordine, ci sono le mele marce. Sì, quelli erano quelli dell'Uomo Bianco, dell'Uomo Bianca, hanno fatto varie rapine, omicidi, tra cui hanno ucciso anche dei carabinieri, se non ricordo male. Poi sono stati pizzicati dai loro stessi colleghi. E purtroppo sappiamo tutti, non esiste famiglia, corporazione, gruppo di persone in cui non si annidi o si possa annidare comunque il male, è la pecora nera o la mela marcia, chiamiamola come la vogliamo chiamare, ma questo è insito in tanti, forse troppi uomini, però dobbiamo anche pensare al fatto che su 5 uomini che ci sono ce ne sono altri 6.000 che fanno il loro dovere, anche spesso a caro prezzo. Basta guardare quel carabiniere che è stato ucciso e ha lasciato i figli, la figlioletta appena nata che neanche lo conosce. Quindi è così, non c'è cosa umana in cui non ci sia la pecora, la mala marcia, ecco. Appunto, indubbiamente, infatti anche gli agenti sono a rischio, sono in pericolo quando si trovano davanti certi individui così malvagi, perché quelli sono dei malvagi, sono, per carità, lo sappiamo. Anche quello da poco che era stato ucciso, quel poliziotto che era stato ucciso perché gli aveva chiesto i documenti, quello l'ha subito sparato e poi aveva ferito anche il collega, aveva ferito. Dicevano che gli agenti non erano in servizio e allo stesso tempo non erano nemmeno armati, cosa che so che devono sempre portare le armi anche quando sono fuori servizio, questo io non lo so, però per dire, no, quello si è sentito in dovere, perché è anche giusto che sia così, visto e considerato che sei un agente, è andato ad affrontare questa persona e quello cosa ha fatto? Sempre per pensarci, due volte aveva sparato lui e poi avrebbe ferito anche il compagno. E questo succede molto spesso, perché ripeto, anche loro, questa gente che sono lì messi per difendere noi, tutti noi, purtroppo rischiano molto, che poi tra l'altro non sono nemmeno pagati sufficientemente bene. Purtroppo è così, che cosa ci vuoi fare, Giotta? Sì, c'è da dire che sia chiunque, carabiniere, poliziotto, finanziere e così via, può essere anche fuori servizio, ma c'è l'obbligo in quanto ufficiale di pubblica sicurezza di intervenire, ecco. Quindi non è che se vedi un reato e sei fuori servizio giri la testa e te la squaglia. Purtroppo non è così, perché se poi si viene a sapere ti mettono dentro per mancato intervento, eccetera, eccetera. E sì, purtroppo capita anche quello. C'è da dire che siccome queste cose, perlomeno in Italia, sono abbastanza rare, fortunatamente, a differenza di quello che capita negli Stati Uniti, che è un continuo macello, non pensi mai che dietro va una porta o dietro un muro ci sia quello che ti spara. Però a volte succede, mi ricordo il fatto di quel maresciallo dei carabinieri che è andato a bussare alla porta, c'era questo, non so se era l'esercito omicidiale o cos'era, ma era un vecchio, credo, rimbambito, rincoglionito, appena aperto gli ha sparato una fucilata. Cosa vuoi fare di lì? Purtroppo è un rischio enorme, sempre, anche quando pensi magari che non lo sia. E appunto è per quello che dico che loro hanno una vita abbastanza difficile, perché non si sa mai possono trovare quale delinquente possono trovarsi davanti quando loro vanno a fare il loro dovere, cioè controllare, verificare, arrestare anche, insomma intervenire in qualsiasi circostanza che necessita l'intervento di un agente. Appunto anche loro, poveretti, hanno ragione e fanno bene, perché anche loro hanno famiglia, hanno figli, e non si sa mai come reagisce il delinquente. Il delinquente, lo sappiamo, è uno che non ha niente da perdere e dunque può complicarsi la vita, addirittura ammazzarsi, per cui bisogna vedere. Per esempio, quindi a Sassari anche alcuni giorni fa, lì giù in fondo al corso, si sono azzuffati alle 2, alle 3 del mattino o addirittura alle 4 del mattino. Questi nigeriani c'erano lì, la gente si è alzata perché ha sentito tutte queste voci. Chiaramente arriva la polizia, ma cosa può fare più di tanto? Li prende, magari li porta in questura, li interroga e poi li rilascia. Se qualcuno verrà denunciato, anzi più di qualcuno, però alla fin fine, ripeto, quando ti trovi davanti i delinquenti non sai mai come comportarti e soprattutto cosa ti può succedere. E allora anche loro, essendo uomini umani, devono cercare di salvare la pelle, perché è così che deve essere, certo. Beh, certo, in caso di aggressione, quello sì. In caso d'aggressione c'è il dovere di difendersi. Di difendere sia la loro persona sia anche la comunità degli altri. Però certo non come fanno gli americani, che prima ti sparano e poi ti ammanettano. Quella è veramente una cosa assurda, cioè anche perché c'è l'evidenza proprio che sono esecuzioni, non sono arresti. Una volta si diceva anche per i tedeschi, una volta prima i tedeschi ti sparano alle gambe e poi sparano in aria come avvertimento per fermarti, però prima ti hanno sparato alle gambe. Una volta si diceva così, poi se sia vero questo io non lo so, però per dire, no, io l'ho sempre sentito dire da persone di una certa età, per cui può darsi anche che sia vero, ma comunque mi sembra un po' strano. Sì, perché ripeto, tornando a parlare dell'America, si sa, in America c'è quella rivalità dell'uomo bianco con l'uomo di colore, e c'è sempre stata, e dunque lo sappiamo, e non per niente c'è il Bronx lì, dove appunto ci sono tutta la preziosa specie dell'umanità, e lì vai tu e avvicinati, e come fai a avvicinarti in quella zona? E allora gli agenti, che sono sempre diffidenti, hanno ragione anche di essere diffidenti, prima di spararmi ti sparo, anche se è sbagliato chiaramente, però purtroppo la gente presa dalla paura o dalla circostanza magari fanno prima loro e ammazzano, anche se non si dovrebbe fare, anche quella è crudeltà, anche se uno è di colore è crudeltà, ci mancherebbe altro. Nei casi che abbiamo visto, più che crudeltà è omicidio, è omicidio intenzionale, per volontà, perché scusa, se metti una persona a terra ed è quasi immobilizzata, sono in 6 o 7 di agenti, a porta le sta a strangolarlo lì, e metti le manette che ce ne hanno sempre appese lì, le mani dietro la schiena, le manette, via, boh, basta, chiuso. E questi invece sparano subito in maniera preventiva, una cosa allucinante, hanno anche le pistole taser e ho visto che sono poco, preferiscono quelle col piombo. E tieni presente che non succede tanto nel Bronx, che sono quartieri ovviamente difficili, ma succede proprio in zone di città piccole, anche di paesi non tanto grandi. è una forma, cioè, veramente preoccupante, ecco. Sì, come quello appunto che l'hanno steso a terra e poi l'hanno premuto la faccia contro il terreno e l'hanno soffocato così. Quello l'avevano ammazzato così. E purtroppo, come lo dica, e anche loro presi dalla paura, sai, l'animo dell'uomo bisogna vedere in quel momento, anche se si è in 6, in 7 persone contro uno, bisogna vedere come uno ha i nervi a fior di pelle e può fare una cosa che non deve fare, che giustamente non è concessa, però purtroppo scappa anche quello. Oi, quante cose, ci sarebbe da fare un discorso lungo, una vita non basterebbe per raccontare tutte le storie, già fra. Purtroppo così, tante cose, tante tragedie, che forse in qualche modo con un approccio migliore è molto più, sarebbe molto meno drammatico, ecco. Per quello che comunque c'è da vantare in linea di massima la polizia europea, che mostra di valori ben diversi da quella americana, che ne dicano nei telefilm che fanno. E poi anche la polizia e le forze dell'ordine italiane, che comunque sono molto molto moderate, preferiscono farsi picchiare a volte che usare, diciamo, la violenza, ecco, anche se in determinate circostanze sarebbe diciamo concesso. E tieni presente che anche facendo un rapporto tra popolazione, in Italia è raro sentire un conflitto a fuoco tra polizia e banditi, negli Stati Uniti ce n'è almeno il quintuplo, il sestuplo. Poi vanno a dire che qualche nostra città non è sicura, e che fa ridere. Quelli girano tutti armati, chi di coltello, chi viene in Italia poi pugnala anche carabinieri, non ho capito. Sì, ma la cosa più strana è che loro possono andare in giro armati, il problema è quello anche. In America ci sono certe leggi, sinceramente, che secondo me non vanno bene, come quello di avere le armi così in giro per strada. Addirittura i ragazzini vanno a scuola con la pistola, ma quando mai? Più di una volta ci sono stati degli incidenti anche a scuola. Invece qua, vabbè, qui no, non si può portare non la pistola o il coltello, ma nemmeno gli attrezzi del lavoro, perché devi avere una ricevuta che giustifichi che tu stai andando in giro per lavorare. E in Italia è così, e dunque hai bisogno di portarti gli attrezzi del lavoro. E qui, perché se ti controllano e tu sei con una cassetta di attrezzi, che so io, chiavi di ogni genere, scalpelli, cacciavitti, martelli, eccetera, e così, cioè, tu come mai hai tutti questi attrezzi qui nella macchina? E tu devi giustificare che stai andando a fare dei lavori, ma se non è un orario idoneo per fare dei lavori, sei fregato, perché secondo che trovi ti porta in questura e ti arrestano e ti denunciano. E purtroppo è così. Per quanto ne so io, quando lavoravo, che andavo in giro, dovevo avere la ricevuta, la bolletta di accompagnamento, che stavo trasportando l'attrezzatura di lavoro per un determinato posto, perché dovevo lavorare. È così, Gianfra. Qui invece tante volte la gente si prende troppa libertà e giustamente viene punita. Sì, diciamo che non è tanto punito il fatto di sono oggetti atti a difendere, cioè a offendere, che può essere anche un cacciavite. Se soprassedire uno si preoccupa un po', ecco, ma se lo tieni come dotazione della macchina nel cofano, nessuno ti può dire niente, anche se ti fermano. se ben ti ricordi, la Panda e quasi tutte le Fiat avevano dentro quel punteruolo e quel cacciavite reverse che serviva proprio come trazione della macchina, e ancora oggi molte macchine hanno quel sistema. Quindi a portare si può portare, un conto è che te lo trovi nel cofano, magari attaccato alla ruota di scorta o dentro una valigetta con le chiavi inglesi, eccetera. Altro conto è che te lo trovi sul sedile, magari pronto a usare, insomma la situazione allora cambia, allora è un oggetto con possibile uso di offesa. Tutto lì. Tieni presente che è vietato anche il famoso coltellino svizzero, perché non esiste quello delle cinque dita cortate, non parla di misure, parla di lame, quindi se c'è un oggetto accominato atto a offendere può essere configurato come reato. Eh beh sì, indubbiamente, anche se è con una lama corta è ovvio, anche se da 2 centimetri la lama, per dire, è sempre uno strumento atti ad offendere, certo, che uno prende e glielo passa in faccia per dire che cazzo e no va bene, anche se da 2 centimetri la lama. No, ma è così, sì, tornando al discorso dell'attrezzatura di corredo che deve avere la macchina, quello sì, però io penso che si deve portare ben composta, racchiusa nella sua busta, eccetera, non la puoi tenere così sparpagliata sullo, anche se nel portabagagli, non la puoi tenere così sparpagliata, perché ci vuole poco aprire il portabagagli e prendi un attrezzo così che offende sicuramente, non va bene. Se invece è impacchettata, allora il discorso cambia, però anche il click della macchina deve essere, secondo me, legato alla sua posizione, perché c'è il posto dove deve essere legato, in modo che tu non puoi fare velocemente prendere, no, ma se tu lo tieni così libero, allora quello diventa un'arma, quello è un'arma, non va bene, anche se è nel portabagagli e non sul sedile. Poi ci sono quelli che ce l'hanno anche sotto il sedile, sempre quello, non ci sono dubbi, ma purtroppo dipende da chi incontri anche, dalla gente che incontri, ti può fare osservazione oppure ti può anche lasciar passare così tranquillo. Ma se nel cofano, dentro la sua custodia non succede niente, nessuno ti dice niente, perché se la vogliamo dire tutta, Giulio scusa, io sono andato tante volte a fare pesca subacquea, quello che era un fucile ad aria compressa, abbastanza piccolo tra l'altro, molto maneggevole, che potevi caricare con arpione, era a tutti gli effetti un'arma. Però sempre scarico, messo nel cofano, nessuno ha mai detto niente, capito? Proprio perché aveva le pinne, aveva la maschera e quindi era tutto regolare, capito? Certo, se ti vengono nelle Alpi dove proprio non c'è pesca e non c'è possibilità di fare immersioni con fucile subacqueo, allora qualche dubbio, anche se nel cofano già le viene. Questo sì. Ci sono tante situazioni, sai. Cosa vuoi che ti dica? Ci sono delle situazioni che magari permettono di tutto, ci sono altre situazioni, ma soprattutto certi individui, secondo che trovi, ripeto, uno dice vabbè questo sta andando a pescare, oppure questo sta andando a lavorare, alla tratta di lavoro, invece no, per regola, io so, perlomeno a me mi dicevano così, quando io lavoravo, che andavo fuori, e dovevo fare la bolletta d'accompagnamento. Trasporto o attrezzi di lavoro, questi da noi erano uno scherzo, non era uno scherzo, per cui è così, e oggi invece purtroppo non so se c'è ancora quella regola, ma suppongo di sì, perché ovviamente sono armi micidiali, se io prendo lo scalpello, gli do il filo in pancia a uno maschiettando, non va bene. Invece uno deve giustificare come mai tu hai questa attrezzatura così da lavoro nel portabagagli. Bolletta di accompagnamento, oltre al carico che magari avevi anche, no? Magari stavi anche trasportando del materiale, dovevi avere anche la bolletta di accompagnamento per quello che stavi trasportando, specificato pezzo per pezzo, quanti pezzi sono, 10 pezzi, e 10 pezzi dovevi scrivere. Una volta era così, se adesso hanno cambiato le regole, non lo so, Gianfra. Guarda, ci sono talmente tanti tipi di arma oramai che non si danno a certo un cacciavite. L'importante è che, ripeto, queste cose siano custodite lontano dal posto di guida, quindi che non siano pronte all'uso, ecco, perché la reazione principale poi è quella del... per dire, se uno vuole fare male prende il cricket e lo tiene in testa, ecco, quindi non bisogna neanche essere così esagerati. C'era quella chiave per le ruote, ad esempio, c'era quella chiave per le ruote, è micidiale, un colpo di testa te la rompe. È così. Ok Giulio, si è fatta ora, quindi ti devo lasciare. Buona serata, grazie per queste ore, alle prossime, oggi eravamo proprio soli. Sì, è vero. Ciao Gianfra, grazie a te per la chiacchierata, avremo modo di risentirci. Ciao, ciao, grazie. Ciao, alle prossime, buona serata. Qualcuno 10? Vabbè. Ciao lui, vabbè. Ehi, qua siamo. Dove sta casa tua? Qua. Ehi, è forte la radio. No, infatti ho detto, mi sembrava strano, ho detto qua siamo, pensavo stessi dicendo dire da un'altra parte. A casa, mi sto sistemando un PC. Da qua non ho finito. Sto leggendo qualche messaggio. Stazionare, come ha piovuto. Risposta, no, a me grazie a Dio io non ho mai avuto problemi di stazionare, sempre basso e basso. Vabbè, perché c'è il piede all'aria. Si era staccato il virus, nuova vittima a Sassa, il bilancio nell'isola sale a 1137. Per carità. Allora, Fabrizio, ma con la virus stai dicendo? Basta che ti prendi un raffreddore, un'incarnita, una frattura, un infarto, sempre coronavirus. Ma io ho preso una bella tapparella blu fondo, Luca, ancora non l'hai capito. Ma per carità. Tu se muri di infarto, c'hanno il coronavirus, dicono sei morto di coronavirus, non col coronavirus. Sono due cose. Stanno cercando molti da sottoterra. Guarda caso non hanno fatto neanche autopsie, niente. Cioè, controlla tu le morti dell'anno scorso per influenza e poi vedi quante ne sono morti quest'anno, ne sono morti di meno quest'anno. E poi controllate tutte le altre morti, ictus, infarti, emorragie, eccetera, eccetera. Chi si non rizzecca? Sì, ma infatti, come dici tu, già, questo video succede, ma non ho capito ancora. Questo obbligo della mascherina è un casino. La mascherina è una cosa inutile, perché se tu ti vuoi proteggere non usi sicuramente quelle mascherine lì e devi usare degli abiti impermeabili, quelli che usiamo noi in officina quando fai le verniciature, completamente chiuso dalla testa ai piedi, con l'ossigeno, così non entra il virus. Però poi quando te li devi togliere devi andare in un ambiente sterile, che non ci sia contatto con niente, ti fanno la sanificazione e così non lo prendi il virus. Ma che cacchio, ce l'hanno preso dentro l'ospedale e noi con la mascherina in carta non te lo prendi, se proprio te lo devi prendere. Dicono tante cazzate, tante stupidaggini, ma tante però. Certo Luca, tu basta informarti quante sono le dimensioni di un virus e poi ti immagini dove passa. Il virus è 600 volte più sottile di dimensioni che un cappello. Fate un conto, passa all'interno dei pori della pelle, dentro gli occhi, da qualunque parte del corpo può entrare il virus. Basta che te lo sfighi addosso, qualunque cosa. Ti metti la mascherina, la togli, poi te la rimetti, se quella infetta ce l'hai comunque. Cosa serve la mascherina? Che ti penetra dritto. Non ti esce la saliva magari, però cacca, la mascherina è infetta. Yeah. Lo so. Tu pensa ai miliardi che stanno guadagnando con queste mascherine, filo di miliardi, tra questa ammucchina o tra bugiama, il disinfettante per le mani, se no non ho venduto alcol. Adesso è stato il vaccino, adesso ti obbligheranno a farti il vaccino, stai attento a non fartene lui. Non poi su blu più. Allora io ti dico una cosa, siccome c'è Gentaglia che comanda, questi signori qua faranno in modo che il vaccino se lo facciano tutti quelli che lavorano nei ospedali, polizia, vigili del fuoco, enti pubblici, insegnanti, eccetera, eccetera. Tu dici io non me ne faccio, io sono il primo che non me ne farò neanche sotto tortura, però se tu ti devi imbarcare in nave, in aereo, ti dicono c'è una lei, è vaccinato, no, non si può imbarcare. Alla fine un dirigente sarà costretto a farsi il vaccino inutile, perché quel vaccino sarà inutile, perché il virus è già modificato. Break. Avanti il break, buonasera a tutti. Mi ha Riccardo quello di Leopardo. Ciao Ricky, c'è anche Luca, sono appena entrato anche io, ti rilancio a Luca. Ehi, ciao Riccardi. Ciao Luca, mi ha ascoltato anche a te. Guardate, un giorno senza sentire Riccardo, vabbè che non stavo entrando mai, ci manco due o tre mesi qua. No vabbè, dimmi io che non stavo entrando. Ehi, Luca, sei preso il telefono, è quello che stai usando. Luca si è perso. E beh Riccardo, cosa stai combinando? Niente, stavo sistemando qualcosa, ho acceso un attimo la radio per vedere se c'era qualcuno e ho sentito all'inizio Luca e poi ho sentito anche a te, quindi sono entrato. I più forti di segnale di tutta la Sassa. Da, possiamo dire così. Luca è forte, e Luca qua di tutti quanti è quello che arriva più forte, senza considerare quelli che ci sono attaccati. Di quelli che abitano lontano è il più forte di tutti, Luca. No, è vicino, è il più vicino di tutti, però ce ne sono più forti. E infatti non capisco come mai. E mentre da te ti arriva a bomba, mi ha detto Kawasaki, Tonino, forse c'hai un varco tu che riesci a entrare nel canalone, perché tu probabilmente le vostre antenne si vedono, perché lui abita nella parte, cioè proseguendo nel tuo canalone di casa tua verso il mare, lui tu ce l'hai di fronte. E infatti Kawasaki senza essere attaccato è 9.40, è attaccato 9.60 fondo scala. Figurati, io quanto ti sto arrivando in questo momento? Boh, può fare un altro passaggio? Ora, Coca-Cola 9.35. Così, hai già citato roba. Ehi, a me ne ha messo il gozzo. Il sarcofago, Becla. Ehi, dai, sto uscendo. Ti ho sentito, sono andato a salutare. Ciao. Dove sei arrivato? Ehi, io. Ma ti ho sentito di sfuggita perché ho acceso che eri giudice in campagna. Anche questa arriva a 9.50 da me, Becla. Ehi, era anche la campagna, Monteoro, ma è vero. A tutti arrivo così, molto molto forte. Poi vabbè il Marret c'ha 50 watt e 120, c'ha due potenze, capite? Per quello ti arrivavo forte. Vabbè dai, continua, ci sentiamo. Ciao. Ehi, ciao, passa quando c'è tempo. Ok, vai Riccardo. Ciao, Cola, ben ascolta. Luca si è perso, c'è qualche altro qua su 10? C'è un caldo in questa stanza, mi sto sciogliendo, rimango ancora qualche minuto e poi mi trasformo in un altro locale. No, sono qua Robè, sto aspettando un messaggio che devo andare a vedere un piccolo lavoretto. Saluto anche a Claudio, però se non mi risponde, più baretta. Eia, cosa c'hai tu di computer personale, Lu? Io, Acer. Grosso? 17 pollici, come processore, un dual core. No, vabbè, poi l'ho messo l'SSD, va benissimo. Ma te ne è sembrato tutto, l'hai modificato? Non ho modificato niente, ho messo solo l'SSD. È più fluido, là, più veloce. Via, no, vabbè. Ok, vai Ricky. Io come sempre per adesso ancora il Toshiba. Anche io c'ho il Toshiba, allora il Toshiba e Fujitsu sono i migliori computer al mondo come qualità costruttiva e come materiale, però se vuoi prestarti ormai devi spendere un po' di più, ci sono anche altre cose, però i migliori computer sono loro, perché costruiscono tutto dalla A alla Z, tutta la componentistica, dai monitor agli integrati, i processori, tutto fanno loro. È l'unica casa che costruisce insieme alla Fujitsu Siemens, che costruisce tutto dalla A alla Z, tutti gli altri Acer, HP, eccetera, eccetera, si fanno vanno a fare la componentistica. E infatti sono quelli di tutti, il mio del 2013, facendo l'Ancona non mi ha mai lasciato a piedi, sta sempre andando, la batteria è sempre quella, ti fa almeno 4 ore di autonomia, non sarà velocissimo perché è tutto quanto bene le mondezza, però grazie a Dio sta sempre andando, non si intrippa mai. E la c'ho anch'io un Toshiba, giù da quella 25. Questo là ce l'avevo regalato, grazie a Dio funzionava bene, non posso dire diversamente. Poi ogni tanto c'è da formattare, l'ho formato e via. Però quando gli ho messo l'SSD e un'altra musica, 4 giga di RAM, io sto guardando un po' se trovo qualche affare, un i7. Dopo un i7 ho fatto bingo, l'ultima macchina, è velocissimo, poi anche quel PC ha l'SSD integrata, è una scheda praticamente, e sono belle macchine, belle bestioline. Guarda, HP, secondo me sono i peggiori, sono difettosi, e poi dicono l'Acer che è uno dei migliori come portatile, ecco. Poi non lo so, ma la ti dico. Sì, sì, no, allora io sto parlando di qualità costruttiva, la componentistica, la Toshiba è uno dei pochi al mondo che costruisce tutti gli integrati e tutta la componentistica. Se tu devi costruire un computer, dallo schermo in poi, fa tutto lei, è in condizione di costruire tutto. Tieni presente la PlayStation, il processore, la Sony, l'ha fatto costruire la Toshiba, i monitor, certi monitor di case grosse, sono costruite dalla Toshiba, perché c'è una tecnologia, la Toshiba è stata la prima al mondo che ha fatto il 3D senza gli occhiali. E cacchio, e non è poco. Poi ci sono degli ottimi prodotti come hai detto tu, la Acer, le Lenovo sono degli ottimi computer, però costruiscono, cioè si fanno fare il processore, si mettono il monitor della Samsung, si mettono l'integrato con la scheda video con componenti, un pezzo Panasonic, un pezzo Sony, Texas, eccetera. È tutto un miscuglio, per cui non è la stessa affidabilità di una ditta che costruisce solo dalla A alla Z tutta quella roba lì. L'ultimo computer, una bella bestiolina, però dipende anche dal processore che è avanti. Buonasera Antonello. Buonasera a tutti comunque. Lenovo, quelle tappette sono ottime, e adesso anche le Huawei sta facendo degli ottimi computer, ho visto delle prove comparative, qualità prezzo allucinanti. Poi ci sono gli Apple, cacchio, quelli secondo cosa devi fare fanno 10 a 0 a tutti. Sì, sì, guarda, facciamo allora, c'è Samsung che sono ottimi come nei telefoni, no? Però c'è anche il Xiaomi che sta andando alla grande, ce n'è uno che si chiama Mini Note 10, 256 di memoria, 8 giga di RAM, se l'ha comprato un amico, dice che è non una bestia di più, c'ha 4 fotocamere, cioè fa delle foto che sono uno spettacolo. E infatti adesso sto vedendo il mio, l'S10, lo volevo una tipa di Ozzy, 400 euro, so che è un bel lontano, come faccio? Cioè se scendi qua te lo compro, e se va Ozzy ti va a regalare un telefono a te. Se è saltato lo vendo e mi compro quello. Ma tu stai parlando di telefono o di computer? Ma no, telefono, Robè. Per farti capire che anche Xiaomi stanno andando alla grande. Allora, i telefoni adesso, attualmente, i migliori telefoni qualità-prezzo, come prestazioni e prezzo, i Xiaomi sono in assoluto i migliori, costano meno degli altri, c'è una prestazione allucinante, adesso ne ha tirato pure uno che ha un processore da paura, non parliamo di tutte le cose che c'ha, c'ha uno schermo, come si chiama, la videocamera integrata nello schermo, il primo al mondo che ha fatto il telefonino con la fotocamera integrata nello schermo, che tu non la vedi, dentro lo schermo, per cui lo schermo è completamente occupato, il telefonino. Xiaomi non ce n'è per nessuno, sono eccezionali, ti è presente, è il terzo produttore al mondo e sta cercando di diventare il primo, ha superato anche Huawei, perché Huawei è una bestia lo stesso, però i prezzi sono aumentati tantissimo, è iniziato piano piano, mentre Xiaomi non ce n'è, come prezzi non trovi meglio a quel prezzo. Bianco per me. Ehi. Ho capito, vabbè, avanti buon po'. Sai cosa ti dico? Fiatevi il telefonino, dopodiché fate una cosa, portatelo in terra a 5 cm e poi vediamo quale che tiene di più, così almeno ve lo comprate. Non so cosa devi fare tu Antone, perché se io infatti come le tenessi un telefonino di quei vecchi scusate perché l'ho fatto. Si è chiamato la sirena, l'ambulanza si è chiamata, vuol dire che si è incastinato un telefono, sto dicendo io. No, quello di corna, e così non si rompono. E che cazzo? Metteci si ricorna a un certo punto, una parte all'altra, almeno non si rompe. E un telefono, prende un telefono da 300-400 euro, eccetera, eccetera, bello. Quello che vuoi, quando si spacca il vetro, non te ne fai nulla, non te ne fai. Cos'è quello lì? Lo so. A un certo punto sì. E dove vai nulla? 700 euro, 300 euro. Non mi devo tipo cosa posso dire? Una cosa posso dire? Aspetta, mi viene in mente la fotocamera per andare giù. Che cosa qui, più o meno quel prezzo, a meno che sono 600 metri, 800 metri, quello che sono, ma a meno che si può fare le fotografie, e non si spacca il vetro. Lo so, ma vabbè, bisogna stare anche attenti, non è che, cioè, è un casino, tanto ti cade in terra e si spacca, bisogna stare attenti. No, ma si spacca anche da 10 cm, non è quello di solo, si spacca subito, il vetro talmente fine che non serve a nulla, capito? Lo so, ma se vedi, ci sono quei telefoni massicci comunque, che hanno il vetro un po' più spesso, solo che costa. Lo so, infatti. Tu hai ragione, ma c'è caldo, cazzo, come ha piovuto, fa ancora più caldo. Ha piovuto nulla fa, ma con la goccia ne ha fatto. Ha fatto due gocce di pipì. Uia. Siamo a posto, siamo. Uia. Sai, mi ha chiamato Antonio, mi ha chiamato. In 27, per poter sentirlo in 27. Ma tu sai che ha migliorato il segnale? 9 più 20 adesso arriva, Antonio Babbolo, tutti spariti, no? Ciucco giù. Avanti, che buonasera. Eccomi di nuovo, c'è qualcuno sul 10, è rimasto? Hola? Luca? Antonello, non vi sei? Riccardino? Ci sono. Ecco, è inconfondibile il rumore di quando stacchi il PT, ti fa poc. Anche il mio si sente parecchio, no? Sì, già si sente. Però tu sei un po' più basso di me, Ricca, lo sai. Tu sei 9 più 20 con questo. Addirittura. Aspetta un attimo che provo a vedere cosa si può fare. No, non toccare niente, se 9,20 è forte, che cacchio devi fare? No, dico, probabilmente la mia antenna c'ha una migliore resa in trasmissione. No. Quanto è quando schiacci la portante muta, quanto arriva lo strumento? Senti adesso. No, ma cosa hai toccato il microfono? Rimetti tutto come la prima, Ricca. Un attimo, il cane non capisce niente così, un attimo che chiude la porta. Rimetti come la prima, che stiamo leggermente saturando, sento il cane. Fatto. Lascia così, va benissimo. Dimmi una cosa, hai alimentato le buscato per uno serio? Ricca. Stavo guardando, però molti dicono che non spediscono. Quello certo, quello sì che era un bel alimentatore. Sai cosa costano nubi? Sto guardando i prezzi, mamma mia. No, ma già l'ho visto che costa un sacco di soldi quegli alimentatori, certo. Però stavo guardando, molti non spediscono per la grandezza. Non lo so, quello mio a me me l'aveva spedito, ma cazzo, ho peso a 20 kg. Lo sai cos'è il problema? Che lo mettono dentro le scatole, secondo chi trovi, lo mettono nella scatola, non li fa, bisogna farli tripla scatola, piena di coso, di plastica, di roba, come si chiama, polistirolo, in modo che no, lo devi riempire completamente, perché questi curieri lo prendono, lo sbattono, tirano, ci appoggiano roba sopra, non c'è scritto fragile, non è una futinuzza. Chi faceva un bel lavoro di spedizione è Bianconi, quello della Kenwood, che ripara gli apparati Icom, Kenwood e Yaesu, quello che ti fa una spedizione perfetta. Guarda, che quello che ho io lo stesso peso, eh. Io quello c'ho quello della Tetaggi, il modello 1220, se ne pesa la tuccio, eh. Aspetta, ti ho parlato in due, Luca, cosa hai detto? Ho detto che io le 12:20 dalla testa G e pesantuccio. A trasformatore c'era. Sono i più affidabili quelli lì, cacchio. Poi gli smalti reggono meglio, questi switching sono perfetti finché va tutto bene, però quando inizi a sollevare un po' di potenza iniziano i problemi. E bisogna stare attenti se c'è un fulmine vicino, anche se a 10 km le scariche li crepano. E quelli a trasformatore sono molto più resistenti. Ripeto, io sto mangiando. E io, anche io tra poco vado a mangiare. Ok, Erika, vai tu. E io, oh Robert, stavo guardando questo qua che vende alimentatori su internet. Mai visti gli alimentatori fatti per mettere sopra i lineari, per alimentare i lineari a 12? Vabbè, ma quelli sono cose grosse, quelli mettono trasformatori di saldatrici. Quelli lineari, ci sono anche lineari da 1 kW per coso, per il camion, che sono alimentati a 24 volt, poi ci vuole riduttore di tensione per portarli a 12. Se c'è un lineare a 1000 watt, ti presente, se tu c'hai 1000 watt di potenza effettiva di assorbimento, ce ne saranno il doppio minimo, se ti va bene. Per cui c'hai 2000 watt diviso 12, fatti il conto quanti ampere ci vogliono per farlo funzionare. La formula è sempre quella, watt uguale V per I, per cui da quella formula ti ricavi la potenza. Se c'è l'amplificatore, c'ha 100 watt di assorbimento, ce ne saranno 200, per cui fate il conto. Ricordi? Hai visto il cuccioletto? Siamo su Facebook. È bello, piccolo. Piccolina. Piccolina, scusa. Luca, ma Luca non ce l'hai più perché? No, parobè. Sono morto a 6 luglio. Stavo buttando sangue, non stava bene. Era una settimana che non mangiava. Però l'ho portata a sopprimerla. Poverina, ci aveva un sacco di anni, ma ricordo quello del cuccioletto. Cuccioletto era grande. Facciamo 12 anni il 13 luglio. Era grandetta, ma campava ancora. Vabbè, pazienza. L'ho vista troppo soffrire, poverina, troppo. Non so quando è così, mamma mia. Io per quello cane ho detto, boh, finito, ne ho avuto diversi, a parte che qua a casa non metterei mai. Quando eravamo in officina li tenevo di lì, ma poi ho detto basta. Ci vuole una campagna, un terreno, ti metti tipo Riccardo così sì, ma tenemeli in casa, lascia perdere. Vabbè, l'una quando l'ho presa ce l'aveva un mese. Adesso questa qua, sto prendendo, c'ha 2 mesi, piccola. A giugno la prendo, perché deve fare i vaccini e tutto. Ma cos'è che raffai? È un incrocio di un chihuahua. Ah, a te ti piacciono quelli piccoli, tu erano io più sai quello che avevi l'una, così? Esatto. Già me lo ricordo. No, io prendermi un cane, vado nel canile e me ne scelgo un bastardino. A me non me ne ha funzionato avere il cane di razza. Un bastardo che il cane, cacchio, ti guardi negli occhi che c'è di quelli che te ne accorgi subito se è un cane che è intelligente. Ma è mica è mio di razza, è un incrocio. E infatti, perché poi io guarda, io ho avuto solo cani bastardi incrociati, sono stati i più resistenti di tutti. Mio fratello che ha avuto tutti i cani, i pastori tedeschi, ma tutti i problemi hanno avuto, i pastori tedeschi sono quelli che sono durati più di tutti, ma tutti hanno avuto problemi ai cani di razza. E ne ha avuto decine e decine di cani. L'unico che è durato è il bastardino. Vabbè, non si chiamano bastardini, si chiamano meticci. E chiamano come te voi, incrociati con rotaie di treno, che non si sa che era la mamma, che era il babbo, però sono i cani abituati come resistenza alle malattie e cose. Tu vedi quello che avevo io in officina, catta, ha fatto, per dirti, la prima cucciolata ne ha fatto 12, tutti vivi, non è morto neanche una, la seconda 11 e ne era morto uno, ma forse non lo so come è morto, forse l'hanno schiacciato, allattandolo, non lo so. Tutti hanno vissuto e sono cresciuti tutti grandi i cani. Immagino, una volta qua ne ha fatto 2 cucciolate, la prima mi sa 4 o 3, la seconda 4 con la femminuccia che ho preso io, cioè 3 maschi e una femmina, li ha già dati i 3 maschi. Adesso io mi devo ritirare la femminuccia, solo che stasera sono andato, stamattina sono andato e non c'era, stasera sono andato e non c'era, ci devo andare presto, perché sta qua c'è il presto e a rientrare, chi lo sa. Come mai ti prendi sempre femmine lui? Vabbè. No, ho detto, come mai prendi sempre femmine? Mi piacevo di più. Ma c'è altri problemi che poi vanno in calore, eccetera, eccetera, soffrono. Io prendo il cane preferibilmente maschio, poi anche femmina va bene. Oh, Robè. Dimmi, Erika. Tu quindi prendi cani più resistenti, quelli non di razza? Certo, i meticci, a parte che sono i cani più affettuosi e più riconoscenti di tutto, perché sono abituati a stare che nessuno li vuole, e ti danno il cuore, tutti i cani ti danno il cuore, però i cani bastardi, quelli trovati trovatelli, che li trovi buttati nella mondezza, nei cassonetti, quelli sono i cani che ti danno la vita. Il gatto no, il gatto non lo posso vedere, è proprio un animale ignobile. E vabbè, a proposito di gatti, lei vista notizia qualche settimana fa di quello che si stava cucinando un gatto, l'ha ammazzato vivo e l'ha cucinato. Già l'ho visto, l'hanno arrostito, purtroppo ci abbiamo veduto, però io ho sentito qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare sul 10. Ragazza ragazza. Che è Antonio? Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera Riccardo. Buonasera. Cappa. Ho fatto delle migliorie, come mi sentite questa volta? Mi segnala le 6-9 più 10, però la radio è un bel rimbombante, sembra che sei in una camera, in una grotta. E lo so che ti piace così a te, dai, già va bene. Mettete la Lucy, sei così esci bene. Ho sbagliato canale. Non ho capito. No, che prima sembrava sul 45. Ah, cosa ti dite? 45 diverso. Normale dell'apparecchio. Ma sai che c'è un altro che vuole entrare? Avanti che vuole entrare. Buonasera a tutti, dai. Ciao Roberto, Popolo e Riccardino, Ciao Manuel, mi hai sentito dopo tanto, dai. Continuate pure, siamo entrato a salutare, dai. Vai, Roberto. Ehi, aspetta un attimo il bianco per me, scusate, vai Ricky. Ciao Ginko, mi hai ascoltato. Ciao. Mi senti in quella zona, Riccardi? Certo che ti sento. Ho detto, quanto sto arrivando lì? Qua, 6, Santiago 7, Radio 5. Capo, ma hai cambiato l'antenna tu? No, io ho mai cambiato l'antenna. Vabbè, all'inizio avevo la mini Grand Plane, adesso ho una Sirio. La Sirio quella grande? E la Blizzard, cos'è, 8 radiali? No, sì, una cosa del genere. Io la già faccio. Ah, io c'ho la Stormy 27, l'ho salita un altro po' sul tetto. Vabbè, però adesso mi accontento così, poi vediamo di mettermi una bella antenna. Sono entrato. Tanto dove sei tu? Io in zona Corso Vico adesso. Ah, giusto, me l'avevi detto. Poi Riccardo, una domanda, ma la macchina avete cambiato voi? Non ho capito. Ma io vedo sempre parcheggiata la macchina vostra a Monserrato, di fronte alla chiesa. Perché mamma lì si prende la Panda, lì si prende la Panda dell'ufficio e così va poi a lavorare. Pensavo che avevate preso quel fuoristrada grosso, quello bianco, ero convinto che avevate scambiato. No. Perché mi è sembrato tuo padre, perché mi ha salutato, pensavo fosse tuo padre, forse se hanno cambiato il fuoristrada, poi ho visto quello lì, quello Maranzana parcheggiato di lì, ho detto forse se hanno cambiato il fuoristrada. Hai visto era un vanetto color Maranzana? Quello vostro, che marca è, cos'è, Dolce, Chevrolet, quello che ci avete voi. No, se non ce l'abbiamo più l'ha dato babbo ad un amico. Allora ti sono ragione che non ce l'avete più. Ah, vabbè, sì, il vanetto, sì, quello abbiamo dato da un po', da almeno un annetto buono. No, allora sto dicendo un'altra cosa. Quello che è venuto in officina un paio di volte, che rimane un bealto, che piace a me. Ah, ma il doggio Bordeaux. Quello Bordeaux sto dicendo. No, quello è sempre nostro, per me è qua. Quello che sto dicendo, che l'ho visto un paio di volte a Monserrato parcheggiato, e infatti ho detto, forse l'hanno venduto e c'era un'altra persona. No, ti ho detto, mamma, perché lascia la macchina lì e ci prende la Panda per lì. Sì, ho capito. Poi è passato uno con uno di quei fuoristrada grossi, quello bianco, tipo gemellato, quello grosso, non so se era un Dodge o cosa, forse avranno fatto scambio, se hanno ripreso la macchina con la bianca grossa. Boh, ma cos'era, americano? Ehi, americano. Boh, mai visto. Oh, ma per caso, in giro, l'hai mai visto? Non so se ti avevo mai mandato la foto, questo vanetto color maranzana che stavo pensando già che era quello, che l'aveva dato babbo ad un amico mio. Aspetta, ti mando la foto, se l'avevi mai visto in giro a Sassari. Come si chiama vanetto? Come sto arrivando adesso? Cos'è? Sto arrivando adesso. lesione in occhio. Ma andavi bene anche prima, tanto pulito, eri 9 abbondanti, 9,5, dai, 9,10, però la radio è sempre chiara, non ne avevi quel REM. Scappa, ma da Riccardino com'è? C'è stato un break registrato un attimino. Riccardino, guarda quanto ti arriva Antonio. 1, 2, 3, prova. Ma poco di più, un set abbondante con picchi positivi. Prima eri fisso, adesso riesci ad arrivare forse quasi anche a... Staccate le ali! Arrivi più o meno. Chi c'è l'accaparato sotto la Riccardino? Tu sei lui. Attenzione, binario 45, gata! Me l'ha voluto. No, dimmi qua. Poi c'è qualche 60 in più, no? Anzi, se vedi il numero, dai a me. Te l'ho cercato, Clara, che fatta ce l'ho. No, io 60 ne ho più. Ne ho 3, ma ne serve un altro. C'ho 50. Se invece 50, fa attaccare al barret, perché ogni volta lo devo staccare dal 4.30 e attaccare al barret. Ma ne serviva un altro. Lo stavo cercando. Va bene, dai. Ciao Anto, buonasera. Ehi, chi è? Ehi Robert. Aspetta che sta chiamando. Lo senti Robert? Sì, infatti sta parlando, lasciatelo parlare. Aspetta Robert, ripeti che stavo parlando con Robert, con Roberto lo stesso, dimmi. No, da me c'è Santiago 9 Radio 5, non ci sono problemi. Per me va bene, non so Roberto come ti ascolta, qua ti arrivando benissimo. No, qua è 8, Radio 5, è un po' bassina, non è forte, però lo tiro bene fuori, dai, non c'è problema. Ciao Roberto, ben sentito comunque. Ehi, ok, non so se ti abbia ascoltato Riccardino e Antonio. Riccardo ha ascoltato Roberto Dalghero. Io lo sento, masso. Ma lo sento, ma anche Roberto mi ascolti? K, salutone. A tu, avanti. E K, va giù su cazzo di QRM. Vedi se c'è qualcosa che mi sta disturbando. Chi è? Non riesco a sentire, non so se lui mi ascolta. È Roberto di Alghero. Ma salutalo, non so se io arrivo, c'ho questo cazzo di QRM la sera, mi sta assillando le palle. No, ti ha parlato sopra, tu arriva più forte di te qua. No, non ti sente, non tu. Non hai sentito Antonio Bombolo, Roberto? Ho capito. Infatti avete parlato in due, non ho capito un accidente, avete lo stesso segnale. Ok, cazzo Bulgaria, mi serve il disordine, cosa stai usando? Il quello modificato? Era un po', non lo usavo, lo faccio girare un po', dai. No, fai girare, è che c'avevo il volume alto per Roberto, come hai schiacciato tu, ma è molto. Vai rotondo. E a cos'è che tu Barrett, class? Ah, parliamo, te l'ho fatto vedere a te. Il Barrett 950 SSB, una nuova HF digitale, DMR. DMR mi sono preso. Insomma c'è l'attacco Kenwood a 8 e ogni volta devo staccare il 60, attaccarlo lì, capito? Ce li ho tutti, uno su una radio, uno su 780, uno su 430, uno su 440. Poi c'ho l'MC50 che però è normale, quindi non amplifica, capito? Come va il 27? Ci può andare quello? E perché cosa sto usando? Ah, quello sto usando? Certo, sto usando quello. E già l'apparecchio tu non sei entrato più. Questo è il 60 del 430, lo passo lì. Ma perché non l'hai visto? Un mostro, c'ha tutto, c'ha anche tutto il sistema satellitare, DMR, 120 watt AM SSB, due potente, 50-120 watt. C'ha il coso, come si chiama, il GPS, tutto. E c'è anche Gianfranco, uguale a quello, solo lui c'ha il modello superiore del mio. Cos'è Barrett? Questo mi ha detto che modello è? No, pensavo fosse un baracchino, mentre stai parlando di baracchino, però non lo conosco. Che basta digitare nel telefonino, scrivi Barrett 950 SSB. È un televisore a colori, ti mando la foto, tutto illuminato, da paura. Molto molto bello, c'è una ricezione, la favola, poi c'ha dei filtri micidiali in HF, è una cosa spettacolare. L'ho provato con l'Icom Loiaiso, ma aveva ragione Gianfranco, se li mangia. E questo lo sto usando adesso con l'MC60. Ma come è blu è questo? Sì, è blu col frontale, non è un pomello di VFO, è tutto digitale, è tutto, si attacca al computer, capito? Fa di tutto e di più. E il futuro è quello lì, infatti adesso quelli che c'erano tutte quelle radio mega galattiche di prima, quelle grosse, le analogiche alla fine, no? Te le regaleranno, come succede con i televisori, i vecchi tubo cattolico, Sony, che per dire pagavi 2 milioni, 3 milioni, allora te le regalano, e così succederà per i 940, 930 e tutte le linee di quel periodo lì analogiche, anche se erano sono delle grandissime radio, passerà tutto in digitale e sarà il salto come è successo per le TV. Alla fine ti rampi tutto e ti devi cambiare il televisore se vuoi ascoltare o parlare. Speriamo che avvenga più tardi possibile e che ci sia sempre qualcuno che utilizzi ancora analogico. Ok, io vi devo lasciare perché mi hanno chiamato. Ciao Claudio, ciao Roberto D'Anghero, ciao Antonio Bombolo, Emanuele, Riccardino, Luca e tutti gli eventuali amici qua sul canale 10. Ci sentiremo presto, ciao ciao. Ciao ciao Roberto, io saluto tutti perché non so neanche chi c'era, sono entrato per chiederti questa cosa. Va bene. Sto uscendo bene comunque, sì. Ehi, ehi, ehi, mi sto facendo un po' la parte di MR, dai. La parte amatoriale di